mago dello specchio magico, sorgi dallo spazio profondo. Tra vento e oscurità io ti chiamo. Parla! Mostrami il tuo volto. Che vuoi conoscere, mia regina? Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame? Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Di Matteo Caccia. In quel periodo mi sentivo molto sicura di me e mi sentivo davvero in grado di poter sfondare i muri. Mi credevo sicuramente molto più carina di quello che ero in realtà. Così continuai: e di dove sei? Con un tono un po' infastidito lui mi rispose: di Torino. Ecco, pensai, l'ho agganciato. Storie di due di picche inaspettati e di clonazioni, in una puntata tutta dedicata al vizio della superbia. La possibilità di raccontare delle storie che girano intorno ai vizi capitali, che stanno al confine, no, di questa linea d'ombra che ci riguarda e che riguarda il giorno, la notte, la razionalità e l'istinto, ci permette davvero di spaziare e di raccontare anche storie molto diverse in un'unica puntata. Questa puntata in particolar modo è una puntata che amo moltissimo, perché nel giorno di San Valentino, nel giorno degli innamorati per eccellenza, oggi vi raccontiamo storie di superbia che vanno in due direzioni che sembrano diverse ma che in realtà hanno un terreno comune. Cioè sentirsi più di quanto si è, la superbia in sostanza. E la prima storia è la storia di una ragazza che è molto simpatica, lo avete già sentito dal tono della sua voce. Ci racconta una storia legata a un due di picche. Di solito il due di picche lo si associa a quello che le donne danno agli uomini, in questo caso è il contrario, e sentirete meglio nella sua storia il suo racconto, ma di fatto lei la stessa la dice: mi sentivo più di quanto non fossi. E uno degli aspetti del sentirsi più di quanto non si è ha a che fare, spesso e volentieri, quando è esagerato, quando arriva agli estremi, con una sorta di senso di onnipotenza. E esattamente 17 anni fa, il 2003, il 14 febbraio del 2003, l'uomo faceva qualcosa che sembrava effettivamente avvicinarlo a quella sensazione di onnipotenza. O meglio, perdonatemi, il 14 febbraio del 2003 succedeva quello che succede a tutti, cioè veniva a mancare un animale che però aveva dato quel senso di onnipotenza. Sto parlando della pecora Dolly. La pecora Dolly, tutti se la ricordano, era una pecora con la tipica faccia da pecora che hanno gli ovini. Avete presente una pecora? Quello, insomma, non era tanto diversa dalle altre, però aveva 7 anni di vita ed era stato poco prima che compisse 7 anni di vita, era mancata appunto nel 2003, ma 7 anni prima era stata di fatto creata dall'uomo. La pecora Dolly è il primo esempio di clonazione umana. Era avvenuto nel Regno Unito, in particolare in Scozia, ad Edimburgo, ad opera di questo scienziato che si chiamava Ian Wilmut, che aveva trovato il modo per prendere un pezzo di una pecora. Adesso la dico male, più tardi lo diremo meglio, più tardi avremo il massimo esperto di clonazione in Italia che ci racconterà a che punto siamo della clonazione. Ma per dirla male, aveva preso un pezzo di una pecora e l'aveva ricostruita, e quindi questo animale che tutti guardavamo attraverso gli schermi televisivi o le immagini sui giornali ci guardava con la sua faccia da ovino, come dire: che cosa avete da guardare? Ma noi la guardavamo invece perché diciamo: pazzesco, è stata clonata, cioè questa non è nata come sono nati tutti gli animali, tutti i mammiferi, quindi anche noi, ma è nata in un altro modo, è nata perché l'uomo l'ha creata, l'ha fatta nascere. Poi in realtà la storia della pecora Dolly ci racconta anche che è mancata giovane la pecora Dolly, cioè è mancata poco prima che compisse 7 anni per una serie di problemi legati alla clonazione, perché di fatto soffriva di un invecchiamento precoce. Ma tant'è, la clonazione da un punto di vista scientifico è forse l'atto massimo di superbia da parte dell'uomo, e vi racconteremo quello. Quindi oggi avremo due storie: la storia di un gesto di superbia di una giovane donna che si trova in vacanza, e quello di un uomo, in particolar modo quello che accade negli Stati Uniti, è la storia che vi raccontiamo, di un uomo che decide di fare clonare il bue a cui è particolarmente affezionato, ma qualcosa va storto. Mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'ombra. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Questa storia parla di superbia e di come poche parole abbiano dato uno schiaffo al mio ego in una meravigliosa notte d'estate a Barcellona, 12 anni fa. Correva l'anno 2007. Io e il gruppo di amiche storiche partivamo per trascorrere una settimana di vacanza in quella splendida città. Eravamo 6 ragazze, tutte tra i 22 e i 23 anni. Eravamo carine, ma soprattutto eravamo cariche. Io, in particolare, ero davvero piena di aspettative per quella vacanza. La prima settimana di luglio partimmo, raggiungemmo l'appartamento affittato a Barceloneta, strategicamente scelto per la sua vicinanza al mare, e la routine giornaliera venne presto stabilita. Mattina a letto fino a tardi, pomeriggio in spiaggia a dorare un po' la pelle, poi aperitivo e la sera in discoteca, tirate a spigolo vivo. Eravamo delle grandi confusionarie, cioè quando arrivavamo ci facevamo sentire. Sai quelle tipiche ragazze che parlano con il tono di voce un po' alto, che insomma un po' schiamazzano, però direi in generale molto simpatiche. Con il senno di poi ti direi che eravamo delle ragazze normo carine. Un giorno fummo invitate ad una festa in un locale gigantesco, con tanto di piscina e schiuma party in programma. Lo avremmo raggiunto con l'autobus organizzato dal locale, che sarebbe stato sicuramente pieno zeppo di ragazzi, come noi, ed io avevo aspettative ben al di sopra della mia portata. All'epoca ero piuttosto sicura di me, fin troppo. Quella sera, convinta di essere irresistibile, avevo scelto con cura un paio di jeans aderenti bianchi, un top corto nero e avevo i capelli sciolti con morbide onde sulle spalle. La mia chioma scura doveva avere un che di ammagliante, secondo i miei gusti ovviamente. Così, vanitosa come un pavone, ero pronta ad utilizzare il mio fascino per conoscere i ragazzi più carini del locale. Ed ecco che arrivò la prima occasione. Scendemmo dall'autobus e ci dirigemmo verso l'entrata. Non male, quel ragazzo col cappellino e lo sguardo intrigante da bad boy. Non fui l'unica a notarlo. Le mie amiche erano della stessa opinione. Mi sentii dire: forza, fatti avanti tu, dai, su, vallo ad impezzare. This magic in the air, the night sky breaks your face like a mystery left uncovered. On vine, your luscious lips entice me to discover. Talk to me, call me a love, call to me on the lazile. Save me, spells over denial. Make the most of this true love. Dentro di me ero convinta che le amiche lo dicessero perché mi consideravano la più carina del gruppo, dunque avrei avuto più chance. Col senno di poi, penso invece che puntassero alla figuraccia epica, da narrare all'infinito negli anni successivi. E infatti, audace come una faina, mi avvicinai al ragazzo, lo salutai con il mio sorriso migliore. Ciao, come va? Notai subito che qualcosa non aveva funzionato. Il ragazzo a malapena si girò. Sembrava non notarmi. Ma io non mollai. Ero sicura che, ponendo un'altra domanda, lui mi avrebbe guardato e allora avrebbe smesso di fare il sostenuto. Così continuai. «Di dove sei?» Con un tono un po' infastidito mi rispose: «Di Torino». Ecco, pensai. L'ho agganciato. Noi queste tattiche le chiamavamo le tattiche di impesting, cioè andavamo a provare ad impezzare una persona e testavamo quanto riuscivamo a mantenere l'impesting. Quindi questa era una grande sfida perché, insomma, il ragazzo in questione era piuttosto carino e quindi la posta in gioco era abbastanza alta, però, come ho scritto, io mi sentivo molto sicura di me e pensavo che sarebbe bastato magari avvicinarlo e mostrarmi pseudo interessata per agganciarlo. Ah sì? Devo continuare, penso. Sai perché? Prima, mentre eravamo in coda, ma non riuscì nemmeno a finire la frase, perché lui mi interruppe bruscamente con una semplice domanda. E beh, sei qui in vacanza? Mi chiese. In pochi attimi, superbamente, io lo immaginai lusingato della mia avance, pronto a voler sapere tutto di me e della mia vacanza, dunque risposi sì, ma neanche l'ebbi pronunciato, che il ragazzo mi rispose allora buona vacanza e se ne andò. Quella frase, allora buona vacanza, è entrata a far parte del nostro vocabolario. Viene usata per stroncare l'entusiasmo di chiunque di noi si stia esaltando nel raccontare qualcosa di epico. Io ammetto che dopo aver letto questa storia la prima volta e dopo averla letta anche adesso non vedo l'ora di parlare con Chiara per farmi raccontare anche i minimi dettagli di quella vacanza. Pronto? Ciao Chiara, buongiorno. Ciao, buongiorno. Senti, noi abbiamo scelto questa storia per questo giorno, per questo venerdì di San Valentino, sì, perché per noi ha anche un certo significato, insomma. Nel senso che da uomo, da maschio, mi sembra incredibile che lui ti abbia rimbalzato. C'è una cosa che se io la racconto, ma a tutti gli amici che ho intorno mi dico, ma figurati, cioè una ragazza che viene lei a impezzarti, come dici tu, tra l'altro, sì, che è un termine sul quale vorrei tornare, sì, cioè non la puoi rifiutare, sei in vacanza, sei a Barcellona, quindi i casi sono due: o questo era veramente un fotomodello, oppure aveva una giornata storta. Ma chissà, vallo a sapere. Oppure tu effettivamente, diciamo, hai peccato eccessivamente di superbia, come ci racconti nella tua storia. Potrebbe essere, però il fatto che io ero da sola, cioè non lo avevamo assalito con domande in 4-5 ragazze, ero io e lui, eravamo noi due, basta. Senti, ma ti è mai successa una cosa del genere poi nella vita? Mi è successo nuovamente, ma è stato uno scherzo, molto divertente. Che ti hanno fatto? Sì, mi è stato fatto uno scherzo, sì. Cioè, ce lo racconti, ti hanno detto vai... Sì, praticamente eravamo in una discoteca con le amiche, mm-hmm, 4-5 anni fa, e praticamente eravamo lì che stavamo ascoltando questo DJ e c'erano altri ragazzi vicino a noi. Cominciano a parlare con noi, eravamo le stesse ragazze, forse qualcuna in meno, però eravamo sempre lo stesso gruppo. E quindi questo ragazzo comincia a farmi qualche domanda, poche in realtà... Io gentilmente rispondo e mentre ascolta una delle mie risposte mi ha detto, mi ferma e mi fa, beh vabbè, ma non mi interessa niente, guarda. Poi prende su e va via. Prende su e va via. E tu sì, ovviamente... Io sono rimasta basita, mi è tornata subito alla memoria la storia di Barcellona. Poi dopo il ragazzo è tornato dicendo stavo scherzando. Ah ok, ma, sì, ma era d'accordo con le tue amiche? No, in realtà no, però quindi, no. Ok, quindi è stata, diciamo, una casualmente identica alla situazione, esatto, che hai vissuto, esatto, precedentemente. Senti, che cosa intendi quando dici normo carine? Molto, guarda, ti dico, né eccessivamente belle, ma neanche eccessivamente cesse. Normali. Okay. Tu sei romagnola o emiliana? Emiliana, ok. Ho sempre il panico di fare questo errore e quindi insomma mi paro le spalle in qualche modo. Mi dici che cosa intendete voi per impezzing? Allora, l'impezzing praticamente quando attacchi la pezza a una persona significa che insomma convinci davvero a parlarle, farle delle domande e a volere sapere cose di lei, okay, in modo pesante e insistente. Ok, che è una cosa che, ripeto, di solito mi capita di ricordare fanno più gli uomini nei confronti delle donne. Voi invece siete abbastanza sfacciate. Molto. Senti, che cosa fai adesso nella vita, Chiara? Sono una designer. E più o meno quanti anni hai? Non si chiede, ma grosso modo hai una trentina d'anni. Sì, di più. Di più, va bene. Vi frequentate ancora col gruppo di amiche dell'Impezzing? Sì, assolutamente, assolutamente sì. E hai trovato uno straccio di fidanzato, Chiara, oppure vagoli? Guarda, ancora? Siamo tutte mamme e anche bimamme. Ah, quindi è finito quel periodo di gloria. Sì, sì, sì. Quindi in realtà lo ricordate con una certa malinconia? Sì, però comunque senza piangerci sopra, insomma, è stato bello e va benissimo così. Siete già passate alla fase aneddotica. Io ho proprio un gruppo di amici che sono tutti sposati con figli, per cui nella chat è sempre: oh, vi ricordate sta foto? E sono solo racconti di quando eravamo giovani e facevamo le cose, soprattutto, esatto, diciamo, quelli che giustamente hanno messo su famiglia. Però la usate ancora la locuzione "allora buona vacanza"? Certo, sì, sì, sì. Mi fai un esempio di quando la si usa "allora buona vacanza"? Dunque, vediamo. Una nostra amica, mi pare, un giorno si stava esaltando parlando del mega viaggio che avrebbe fatto. Okay. E ci stava raccontando tutti i particolari e noi l'abbiamo stroncata subito dicendo: sì, vabbè, allora buona vacanza. Va bene, Chiara, è chiarissimo. Ti ringrazio per la confessione, la storia. In bocca al lupo per tutto, salutaci il tuo compagno o tuo marito. Grazie, insomma, Crepi. Con lo un bel farò. Allora buona vacanza. Allora buona vacanza, va grazie, bene. A presto. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Dopo aver scoperto che cos'è l'impezzing, tra poco parleremo di clonazione in una puntata tutta dedicata alla superbia. Le borse in diretta e poi torniamo qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. La puntata di oggi è dedicata alla superbia e cade non solo il giorno di San Valentino, ma nel giorno di una ricorrenza molto particolare, che è, lo diciamo in apertura, quella della morte del primo essere vivente che è stato clonato. Noi non sappiamo dire se sia un atto di superbia da parte dell'uomo quello di restituire la vita che se n'è andata, ma in questa giornata vogliamo raccontarvi un'altra storia che parla di clonazione e in qualche modo di superbia. È quella di Chance, il bue che visse due volte. State con noi. Siamo negli Stati Uniti. Ralph Fisher è stato in mezzo ai tori e ai cavalli tutta la sua vita. Ha lavorato al rodeo sin da quando era molto molto giovane. Da adulto ha imparato ad addestrare gli animali, ma quando ha trovato Chance ad un'asta e l'ha comprato, dice: beh, non avevo mai visto un toro così addomesticato. Chance è proprio il nome di un toro Brahma, un toro bianco di razza indiana, quelli che hanno una grossa gobba che gli copre il collo. Una volta portato nel suo ranch, il toro Chance lascia che i figli gli si arrampicano sulla groppa. Quando vede Sandra, la moglie di Ralph, le si strofina addosso come un gatto. Al di là della taglia, racconta Ralph, era come avere un animale da compagnia. Ralph e Sandra, marito e moglie, hanno un'attività di famiglia che consiste nello scattare foto a delle persone che stanno accanto o sopra ai loro animali, quindi li portano ai banchetti, alle feste, ai balli, ai matrimoni. Il toro bianco è la stella assoluta del loro ranch. Chance è probabilmente il toro più fotografato al mondo. Nella sua vita, tra gli altri, ha incontrato Ashley Judd, Roger Clemens e Madre Teresa di Calcutta. Sonny Bono e Ray Leonard. Chance è stato ospite anche al David Letterman Show e in un film che aveva come protagonista Vince Vaughn. Sandra e Ralph vivono questa dolce condizione di convivenza con gli animali, ci lavorano tutti i giorni, fianco a fianco. Tra tutti però, Chance è il più tranquillo, al punto che gli viene permesso di uscire dalla stalla e pascolare libero sul prato. Chance ha persino il suo posto preferito, dove si sdraia, nel cortile, sotto gli alberi. Sandra lo osserva dalla finestra della cucina mentre lava i piatti. Poi succede. In una giornata piovosa di settembre, Chance non esce dalla sua stalla per mangiare, come fa tutti i giorni. Sandra va a cercarlo, ma non lo trova. Ralph allora si dirige verso il pascolo e lo trova morto. Aveva 19 anni, era davvero anziano per un toro. «È stata davvero una giornata triste», racconta Ralph. «Ho preso la macchina fotografica per fare delle foto, poi però ho pensato che lui si meritasse di più. Ho pensato di imbalsamarlo. Quindi ho tirato via tutta la sua pelle. Pioveva, è stato un momento terribile. Un po' lavoravo, un po' piangevo. Sembravo un bambino. Pensavo che qualcuno avrebbe dovuto farlo e non potevo che essere io. È durato tutto il giorno. Quando ho finito ero distrutto. Ma questa è un'operazione che devi fare entro 24 ore se vuoi imbalsamare un animale. E io volevo averlo ancora accanto a noi. Non riuscivo a pensare di stare senza Chance». Ralph, Sandra e i figli della famiglia Fisher sono disperati per avere perso il loro toro. Un toro così affabile e gentile d'essere diventato parte della famiglia. Dopo averlo imbalsamato, Ralph ricorda di aver sentito tempo prima che un centro veterinario del Texas, che si trova a un paio d'ore di strada da casa, aveva intenzione di provare a clonare un animale. Ralph li chiama, parla con loro e ha la conferma del fatto che quello è il tentativo che vogliono provare a fare. E a quel punto deve essersi consultato con il resto della famiglia e poi li ha richiamati dicendo: «Beh, se lo volete fare, perché non provare con il nostro toro, Chance?» Alla fine gli scienziati decidono di clonare Chance per una semplice ragione. Era vecchio. C'erano diverse cose che pensavano di poter scoprire clonando un animale più anziano rispetto ad uno più giovane. Scoperte legate proprio alla cura di malattie legate all'età. E così, 10 mesi e 18 giorni dopo la morte di Chance, il miracolo della scienza fa il suo corso. Nasce un clone di Chance, il primo toro clonato della storia. È una grande notizia, ne parlano tutti. È lo stesso Ralph a decidere il nome del clone di Chance. Era, racconta, il vitello più dolce che avessi mai visto e ho deciso di chiamarlo Seconda Chance. Pensavo fosse lo stesso animale, continua Ralph. Ero convinto che l'avessimo riavuto indietro. Questo credo sia stato il titolo di molti giornali quando mi hanno intervistato. L'abbiamo riavuto indietro. Quando i Fisher tornano a casa col vitello dal centro veterinario, lo accompagnano subito nella stalla per fargli sentire quell'odore. Poi lo lasciano libero e il vitellino bianco cammina per il prato fino a quando non si va a sdraiare esattamente nello stesso punto in cui Chance si sdraiava sotto le piante. Ma questo non è l'unico punto in comune. Quando mangia, ad esempio, anche lui, invece che mangiare dalla mangiatoia con la testa bassa fino a che non è finita la biada, ne prende in bocca un po', poi solleva la testa e mastica ad occhi chiusi, esattamente come il suo predecessore. «Non avevo mai visto nessun animale mangiare in quel modo», racconta Ralph. «Era lui, era ancora lui, era proprio Chance». Purtroppo però non è esattamente così. Lo stesso veterinario che aveva effettuato la clonazione, infatti, aveva cercato di convincere la famiglia Fisher che non è altro che un gemello geneticamente identico al primo, ma lui non era lo stesso animale, non era Chance. Fino a che, dopo 4 anni, il giorno del quarto compleanno del nuovo toro, Ralph va a prenderlo nella stalla per portarlo sul prato, dove la famiglia ha preparato una sorta di festa di compleanno per l'animale, con tanto di torta che porta il nome e 4 candeline. Quando, mentre lo sta tirando con sé, tenendolo per l'anello del naso, all'improvviso il toro fa una cosa che nessuno si aspetta. Lo attacca. Attacca Ralph. Lo solleva da terra con la testa e lo sbatte sul prato, cercando di incornarlo più e più volte. Mentre succedeva, racconta Ralph, non ci credevo. Per me non era possibile che stesse davvero accadendo. Dopo l'attacco, Ralph ha riconosciuto che Seconda Chance non è lo stesso animale di prima. Ci crede, dice, e ci crede definitivamente. Quando amiamo, però, vediamo ciò che vogliamo vedere. Tutti lo sappiamo. E una parte di lui nutre ancora qualche piccola speranza. Ho preso Chance quando aveva 7 anni, racconta. Chi lo sa che magari quando crescerà anche Seconda Chance non diventerà come lui. Chi lo sa? All my heroes sit up straight. They stare at the ground, they radiate. Me, I'm mumbling in the kitchen for the sun to pay off. Lonely as a ring on a cold coffee cup. I'm some sick hound digging for bones. If it weren't for second chances, we'd all be alone. E in fondo anche questa storia è una storia d'amore, non a caso è raccontata nel giorno di San Valentino, una storia di clonazione, il primo toro clonato della storia, non l'abbiamo ascoltato in una puntata di This American Life che si chiamava proprio Seconda Chance. Ora sentiamo Le strade in diretta, poi torniamo qui a Linea d'Ombra. Siamo nella testa di un professionista. A sinistra il problema dell'anticipo. Sottraendo la rata, la radice quadrata del budget totale, moltiplicando per il tasso dell'interesse. A destra è facilissimo, l'anticipo è uguale alla rata. Con Volkswagen Veicoli Commerciali la formula è semplice. Fino al 29 febbraio, caddy furgone è tuo con leasing finanziario e anticipo uguale alla rata. Da 169 euro oltre IVA per 59 mesi. TAN 249, TAG 397 per aziende e partita IVA. Info su volkswagenveicolicommerciali.it. L'idea in più per chi lavora. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Lo abbiamo già detto in apertura, oggi è il 14 febbraio, non è solo San Valentino, è l'anniversario della morte della pecora Dolly, un po' tutti se la ricordano la pecora Dolly. Era il 14 febbraio del 2003 ed era diventata famosa perché era stata, credo, il primo animale ad essere clonato in assoluto. Questo aveva dato ovviamente il via a un sacco di riflessioni sul concetto di clonazione. Noi in questa parte del programma cerchiamo di saperne un pochettino di più e saperne soprattutto meglio rispetto a quello che vi raccontiamo noi, che sono appunto delle semplici storie, e abbiamo avuto la fortuna di trovare uno scienziato che ha lavorato addirittura con Ian Wilmuth, che è stato quello che è definito il papà della pecora Dolly, cioè lo scienziato che aveva clonato la pecora Dolly. Lui è il massimo esperto italiano in clonazione ed è il direttore del laboratorio Avantea di Cremona, il dottor Cesare Galli. Direttor Galli, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Grazie mille per essere qui con noi innanzitutto. Direttore, a che punto siamo? Lo facciamo in maniera divulgativa perché appunto noi non siamo scienziati, glielo chiedo appunto in maniera divulgativa. A che punto siamo nella ricerca della clonazione oggi? Diciamo che dopo tutti questi anni la clonazione ha assunto un ruolo di nicchia all'interno del panorama scientifico, ha uno scopo principale che è stato quello di acquisire nuove conoscenze sulla programmazione del genoma, e sono state scoperte per esempio le cellule pluripotenti indotte, cioè cellule staminali fatte in laboratorio senza ricorrere agli embrioni, che promettono cure in futuro per tante malattie degenerative. Questo è l'impatto più grosso che ha avuto a livello da dove era nata, cioè in ambito animale d'allevamento. In alcuni paesi vengono clonati degli animali a scopi di allevamento, in Europa viene fatto principalmente per scopi biomedici, quindi si utilizzano gli animali, soprattutto i maiali, per farne dei modelli o in futuro per poter avere degli organi o dei tessuti da impiantare sull'uomo. Ma siamo ancora in una fase di ricerca e sperimentazione, immagino. Allora, diciamo, a seconda di quale target gli animali d'allevamento negli Stati Uniti piuttosto che in Sud America o in Cina vengono clonati e utilizzati negli allevamenti, okay, come riproduttori, quindi è un dato di fatto, non c'è molta ricerca in quel campo. Nel settore biomedico invece ci sono, sì, sono essenzialmente progetti di ricerca, sì, cerca di utilizzare il maiale, che è quello più simile a noi, per diversi scopi. Uno è quello di avere degli organi, un cuore, un rene in futuro, che sono oggi difficili da reperire da donatori umani, piuttosto che un maiale che si ammala di SLA. Noi abbiamo un progetto, abbiamo una linea di suini che si ammala di SLA, che è una malattia a cui non c'è una cura, che è sempre più frequente, e con quell'animale noi riusciamo a studiare, non noi perché noi lo facciamo, poi ci sono i medici che li studiano per cercare di trovare una cura a queste malattie che non hanno cure. Direttore, al vostro laboratorio Avantea, che si trova a Cremona, che tipo di lavoro fate? Noi siamo essenzialmente degli embriologi, cioè noi abbiamo una tecnologia che dagli ovuli, quindi dagli ovociti e dagli spermatozoi, facciamo gli embrioni, quindi riproduciamo in laboratorio tutto lo sviluppo prima che l'embrione venga impiantato in utero. Per esempio, se avete sentito di recente, abbiamo l'unico laboratorio nostro che ha prodotto embrioni di rinoceronte bianco del nord, quello che è praticamente estinto, okay, per cui abbiamo questa tecnologia che viene poi utilizzata, quindi, per gli scopi che dicevo prima. Sul vostro sito ci sono molte immagini di cavalli, lavorate particolarmente con questo tipo di animale? Allora, il cavallo, diciamo, questo è l'aspetto, noi chiaramente siamo un'impresa che si deve sostenere, certo, autofinanziare, certo. Quella è una parte di servizio che facciamo agli allevatori di cavalli, questo è molto richiesto, anche perché siamo gli unici che hanno, diciamo, una tecnologia sviluppata al punto da essere efficiente anche a livello pratico, applicativo. E poi il cavallo è anche il modello per il rinoceronte, quindi la specie domestica più vicina da cui si può imparare per salvare il rinoceronte e il cavallo. Direttor Galli, l'ultima cosa e poi la saluto. Sono passati 17 anni da, appunto, dalla pecora Dolly, che fu il momento mediaticamente più alto per quanto riguarda la clonazione. Lei quando prevede che tornerà ad essere un argomento di non solo tra gli scienziati, ma argomento di discussione pubblica? Quando succederà qualcosa di realmente importante? Di capire come funziona il genoma, perché il Dolly ha aperto una pentola che era il genoma, di cui si sapeva ben poco, a parte la sequenza. Con questi sistemi, con questi modelli, diciamo, scientifici, si riesce alla fine di capire perché il 60% del nostro DNA viene classificato come junk, cioè come spazzatura. Se lì un motivo qualcosa ce l'avrà, penso che la sfida sia quella di capire cosa serve il 60% del nostro DNA di cui si tiene spazzatura. Chiarissimo, chiarissimo. Grazie davvero, grazie al direttore del laboratorio Avantea di Cremona, al dottor Cesare Galli. A presto, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi. A presto.